Ai 18 anni la mia provincia grigia abbandonai, deciso ad arrivare. Portavo via più sogni che valigie, deciso a conquistare la gran città. Presi così dal sarto più di nome, l'abito blu che era una novità. E tra foto, canzoni e l'orchestrazione i miei risparmi son finiti là. Mi vedevo già sopra i manifesti col mio nome grande, più grande di non importa chi. Mi vedevo già grande fra i modesti e firmavo foto, stringevo mani di qua e di là. Il più grande dei grandi fantasisti, e ad ogni successo la gente in piedi clamava a me. Mi vedevo già elencare in liste chi poteva a turno per una sera abbracciarsi a me. Certo sto invecchiandomi sempre in questi panni, ma la voce là frutto d'esperienza e capacità. Sono inacidito un po' col passare degli anni, però del mestiere ti ho tante idee che non tradirò. Non domando che di calciar la scena, ogni volta il cuore davanti al pubblico batterà. Non ho avuto mai un po' di fortuna, non hanno mai capito che ho del talento, ma io ne ho. L'abito blu, 30 anni che lo porto, le mie canzoni fanno ridere solo me. Ogni scrittura mi butto a corpo morto e sopravvivo, chi lo sa com'è. Conosco solo trionfi raccontati, viaggi di notte e donne da motel. Miserabili paghe, valigie e tournée con pasti magri e scalcinati hotel. Mi vedevo già in fotografia, in inverno ai monti, l'estate al mare con qualche star. Raccontavo già la mia biografia per i debuttanti con l'aria magica di chissà. Ogni mia premiere era una marea, mille telegrammi del temutissimo tu parì. Superato il drac di quella platea, ritornavo in scena fra i proiettori a cantare i bis. Ho tentato tutto ormai per venire avanti, ho provato il serio, ho provato il comico e le claque. Se ho sbagliato tutto e resto in mezzo ai tanti, non è colpa mia, colpa di chi non mi ha capito mai. L'occasione a me le ha negata in tanti, altri sono riusciti, avranno i soldi, ma voce no. Ero troppo bravo, ho 20 anni avanti, ma verrà quel giorno che il mio talento dimostrerò. Thank you.